Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Max, ti rendi conto che non può durare laggiù, vero? Non mi dire. E per quanto impossibile possa sembrare, le stesse cose che sono così uniche e sensuali ora, presto saranno il tuo strazio quotidiano. E dopo qualche mese di mangiare e bere e dormire e scopare, che cosa ti riserverà il futuro, eh? La noia. Insomma, che pensi di fare? Scrivere un libro? A table! Max, io sono il tuo migliore amico e ti dico che non durerà. Questo lo vedremo, Charlie. Buongiorno, avete appena sentito una clip tratta da Un'ottima annata, un film che è stato diretto nel 2008 da Ridley Scott. C'era Russell Crowe e la mitica Marion Cotillard, che a me fa impazzire personalmente, non so agli ascoltatori in linea, ma credo anche a loro. Ecco, il film è stato tratto dal romanzo di Peter Mayle, che aveva lo stesso titolo, e parla di un broker londinese, un uomo cinico, spietato, crudele, che pensa solo ai soldi, che a un certo punto riceve in eredità un vigneto in Provenza. Allora lui parte per andare a raccogliere questa eredità che gli viene dallo zio Henry, che era la parte sentimentale della sua infanzia, e va per vendere tutto per fare i soldi. Invece trova un tipo diverso di vita, una vita basata sulla natura, sull'amore, sulla spontaneità. E alla fine il cinico e crudele Russell Crowe si trasforma in un uomo per bene, sentimentale, poetico, non vende il vigneto, rimane lì in Provenza con Marion Cotillard, che gli farà compagnia per il resto dei suoi giorni. Tutto questo è un po' il mito del vino e può essere vero, come no. A me in genere piace rivoltare questi luoghi comuni e dire che è un'industria come le altre e che tutta questa poesia poi nella vita quotidiana dell'agricoltura non so proprio se ci sia. Forse il mondo agricolo era più cinico e crudele per chi ci lavorava di quello finanziario. Comunque oggi parliamo della chimica del vino, anzi la chimica nel vino. Perché? Al di là della poesia, il vino, come l'agricoltura e come tutti questi settori, vivono di chimica e vivono di meccanica. E non è che la chimica del vino sia un'invenzione recente. Oggi parliamo dei solfiti e di diversi tipi di solfiti, ma lo zolfo, per far sì che il vino non deperisse dopo due giorni, lo usavano già gli antichi romani. Tutto questo discorso poi ci permette anche di soffermarci sul settore chimico e di dire qualcosa che un po' demolisca i luoghi comuni stupidi che ancora circolano. Il nostro ospite di oggi è Marzio Dalcin, che è amministratore delegato della società di famiglia Dalcin, fondata dal padre, e che si occupa appunto di chimica del vino. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, supponiamo che il film di Russell Crowe risponda a una verità e che quindi che non sia un film, che sia vero. Ma Russell Crowe, mentre fa il vino con Marion Cotillard, i prodotti chimici li usa? Sicuramente, quando parliamo di vino, dobbiamo fare una distinzione. Il vino è un qualcosa per noi, del mondo mediterraneo, che è socializzante. Essere socializzante significa anche riunire le persone attorno a una tavola, discutere davanti a un caminetto e così via. Quindi il fatto che l'arcigno protagonista del film si trasformi poi in una persona completamente diversa è perché ha scoperto il mondo del vino, effettivamente. E il mondo del vino significa anche che devo farlo il vino. Ora, il vino teoricamente si fa da solo, perché è una fermentazione naturale. Il problema è farlo bene. Il problema è ottenere dei risultati dove questo diventa una bevanda o addirittura per noi, italiani, spagnoli, popoli mediterranei, un alimento. Sicuramente ci vuole un minimo di conoscenza. E noi qui stiamo parlando di una vera e propria scienza del vino. Si parla di scienza del vino in quanto, non so se i nostri ascoltatori lo sanno, l'enologia è l'unica branca del settore alimentare che ha una propria specializzazione. Cioè esistono gli enologi, esistono i tecnici veri e propri del settore del vino, esistono i corsi di laurea in enologia e il titolo di enologo, che ha addirittura un albo professionale. E di lì arrivare alla chimica? Da lì arrivare alla chimica è molto semplice. Il vino è un coacervo di sostanze chimiche, perché altrimenti se uno facesse il vino e non ci mettesse nello zolfo né niente, dopo due o tre giorni andrebbe a male e si butterebbe via tutto. Allora, diciamo che lo zolfo, e immagino che lei si riferisca ai solfiti, sì, sono un, purtroppo un male necessario, come diciamo noi, perché purtroppo è un qualche cosa che deriva dall'antichità. I romani avevano l'abitudine di bruciare direttamente lo zolfo all'interno delle botti di legno, questo lo facevano gli schiavi. Perché? Perché l'anidride solforosa, cioè i famosi solfiti, sono un conservante che viene utilizzato non solo nel vino, ma nella stragrande maggioranza sia delle bevande che di cibi anche solidi che noi utilizziamo tutt'oggi, perché l'anidride solforosa, oltre ad essere un ottimo antisettico, è anche un antiossidante. Noi sappiamo che l'ossidazione è uno dei grossi problemi che hanno i vini, quindi il contatto con l'ossigeno. Però ecco, io non mi focalizzerei tanto su quello che può essere i solfiti o l'anidride solforosa, che per i nostri ascoltatori sicuramente sono la cosa più nota perché è scritta in etichetta. Perché la quelli comunità... che dicono facciamo il vino senza solfiti? È possibile, teniamo presente però una cosa, che i lieviti stessi durante la fermentazione alcolica, il famoso lievito Saccharomyces, i saccharomiceti, producono essi stessi l'anidride solforosa, per cui diventa impossibile distinguere l'anidride solforosa aggiunta da quella che invece è stata prodotta naturalmente nel corso della fermentazione. Ecco perché anche i vini biologici o i vini naturali in etichetta hanno scritto contiene solfiti, perché il limite di legge è molto basso. Ma non è che poi il solfito sia necessariamente un male? No, beh, se in dosi estremamente ridotte non è un male. Teniamo presente che noi ogni giorno girando per la strada di anidride solforosa ne respiriamo continuamente. C'è quella prodotta dalle automobili, ma soprattutto quella prodotta dagli scarichi, dai riscaldamenti delle case. Ci parli del ruolo che svolge la chimica nel mondo del vino, al di là dei solfiti, e poi arriviamo a parlare della Dalcina e della sua azienda. La comunità europea e la comunità internazionale da decenni hanno fissato una serie di normative, di norme legate a quello che può essere la produzione del vino. Il vino che chiaramente deve partire da una fermentazione e deve poi arrivare in bottiglia abbastanza stabile, perché il vino, come tutte le sostanze naturali, tende a decomporsi. Quindi è evidente che una bevanda naturale come può essere il vino, se lasciata completamente in balia di se stessa, non resiste più di 15 giorni. Quindi il fatto, per esempio, che nell'antichità venivano utilizzate spezie, veniva utilizzato appunto lo zolfo bruciato, veniva utilizzato il latte direttamente, veniva utilizzate le uova, il bianco d'uovo, tutta una serie di belle cose. Diciamo che sinceramente io non assaggerei un vino di 5 o 6 secoli fa. Ma infatti dicono che il mondo del vino, apro una parentesi, sia molto cambiato, perché anche solo il vino dei nostri nonni era un po' una schifezza, che se lo bevevano per riscaldarsi e avere l'ebbrezza, ma non è che fossero quei sapori soavi, delicati, articolati che abbiamo noi. Beh, anche perché un tempo il vino aveva più una connotazione, chiamiamola vinosa, non cosiddetta vinosa, che aveva una acidità volatile alta. Cos'è l'acidità volatile? È l'acido acetico, l'aceto. Noi sappiamo che un vino lasciato abbandonato a se stesso, soprattutto all'aria, tende a diventare aceto, questo lo sanno tutti. Certo. E i vini di una volta, che non avevano nessun tipo di stabilizzazione, diciamo mirata e controllata, nel giro di poco tempo tendevano ad essere molto acetosi. E, certo. E quindi il gusto dei nostri nonni, e anche direi dei nostri bisnonni ormai, era quello di vini piuttosto alti di acidità. Torniamo al discorso. La chimica è indispensabile nel mondo del vino, ma io difendo il ruolo della chimica, penso che la chimica fa bene e penso che ci sono un sacco di luoghi comuni falsi. Ma al di là dei conservanti ci sono anche gli lieviti, ci sono anche gli eccipienti. Ci racconti un po' questo mondo chimico che rende possibile l'industria del vino? Esiste un'organizzazione internazionale che è l'OIV, francese ovviamente, ha sede a Parigi, che stabilisce delle linee guida per tutto il mondo, ci sono moltissimi paesi aderenti, praticamente tutti quelli che producono vino, che stabilisce le linee guida di come deve essere fatto un vino in modo corretto, sia da un punto di vista sanitario, quindi per la salute del consumatore, sia da un punto di vista invece organolettico e quindi qualitativo. A livello nazionale, quindi parlo di comunità europee, la comunità europea ha già da tempo, dagli anni 70, emesso delle normative, delle leggi specifiche esclusivamente per il vino, cosa che non esiste per gli altri prodotti alimentari, dove vengono definite le regole, soprattutto la cosiddetta lista positiva, cioè una lista nella quale rientrano tutte le cose che io posso utilizzare e che posso fare da un punto di vista chimico ma anche da un punto di vista meccanico per poter ottenere un vino a norma. Per muovere questa lista positiva non è semplice, quindi qualunque tipo di innovazione tecnologica venga messa a punto deve passare alle forche caudine della comunità europea. Certo. Ecco, detto questo, la chimica, oltre che la parte conservante che fa sì che il vino non diventi aceto, che cosa fa nell'ambito dell'industria del vino? Il vino è una sostanza naturale che ha svariate centinaia di sostanze in delicato equilibrio tra di loro. È un coacervo di sostanze chimiche. Esatto. È un coacervo di sostanze chimiche che vanno da polifenoli, acidi e quant'altro, zuccheri, eccetera, eccetera. Tutte queste belle cose qui, che sono diverse da vino a vino, da uva a uva, ma anche da annata ad annata, stanno difficilmente in piedi se non vengono in qualche modo monitorate. D'altra parte, il vino è l'unico prodotto al mondo liquido che è diverso da un anno all'altro. Non ci sono birre dell'anno X o dell'anno Y piuttosto che la Coca-Cola dell'anno X o dell'anno Y, perché questi vengono prodotti industrialmente e sono sempre uguali a se stesse. Nel caso del vino sappiamo che esistono le annate, proprio perché dipende molto dall'origine. E questo come si lega con la chimica? Questo si lega con la chimica perché noi cerchiamo di evitare quegli spigoli violenti che possono esistere da un'annata all'altra, per esempio acidi, vini molto acidi o vini poco acidi, vini troppo scarichi di colore o che contengono sostanze che possono anche essere dannose all'organismo, come per esempio le ocratossine. Queste si formano perché i vigneti attaccati da muffe, queste muffe, botrite e quant'altro, possono generare degli enzimi che poi sono dannosi anche per il nostro organismo. Ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fabbrica 2.4. Un magnifico bouquet. Naso di miele e spezie. E altre cose belle. Un esame dei polifenoli rivela magnifici riflessi rosso granato, indicativi di un Bordeaux maturo. È un Borgogna. Sì, so che è un Borgogna. Vino per lei, signore. Ah, credo che prenderò un Eclipse. La ringrazio. Bene. Charles, distogliamo la mente dalla vista panoramica e passiamo agli immobili francesi. Quanto varrà? Max, hai saputo a malapena da un giorno della dipartita dello zio dimenticato? E riesci a pensare solo ai soldi? Lo zio di cui mi parli è quello che mi ha insegnato che a ogni uomo serve un fottuto milione. Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4. Avete sentito un'altra clip di un'ottima annata con Russell Crowe diretto da Ridley Scott. E noi in questo film c'è la parte bucolica e apparentemente divertente del vino, ma la verità è che dietro al vino c'è un'industria. C'è un'industria chimica di sostanze che vengono utilizzate necessariamente per renderlo buono, e c'è anche un'industria meccanica. Tra l'altro è un'industria dove gli italiani hanno una leadership. Io spesso contesto tutto il mito che si fa dell'enologia, dell'agricoltura, del turismo e dei cuochi, perché sono poi alla fine industrie che attività economiche in se stesse sono povere e che non possono rappresentare la prospettiva di sviluppo dell'Italia. Se noi ci riconvertissimo al vino, all'agricoltura e al turismo e all'alimentazione, torneremmo a essere un paese povero di stipendi bassi e di camerieri d'albergo a 800 euro. Però il lato positivo e il lato interessante è che tutto ciò alimenta una meccanica italiana che è all'avanguardia nel mondo e anche una chimica italiana che è all'avanguardia del mondo. Ora, il dottor Delcin è presidente dell'Associazione Nazionale Macchine e prodotti per l'enologia. Ecco, come stanno andando questi comparti italiani? Allora, è un comparto estremamente attivo e soprattutto positivo per l'economia italiana, perché tanto per dare delle cifre, negli ultimi anni il divario tra le importazioni e le esportazioni di impiantistica per il settore enologico ha uno sbilancio positivo di 1.200.000.000. In soldoni noi importiamo 400 milioni di impiantistica ed esportiamo 1.600.000.000. Questo lo si nota e lo può notare qualunque persona in Australia, in Nuova Zelanda, in Cile, negli Stati Uniti. Entrando nelle cantine locali, 8 casi su 10 vede impianti a marchio italiano. Questo perché la tecnologia italiana è una tecnologia di grandissima avanguardia. Siamo, diciamo, tallonati pochino, non troppo direi, da alcune aziende tedesche, dopodiché c'è il vuoto. Forse il vero valore aggiunto creato per il sistema industriale italiano da enologia, enogastronomia, agricoltura sta proprio che quando queste attività sono qui, permettono a un certo tipo di chimica, a un certo tipo di meccanica, a un certo tipo di automazione di crescere, no, dottor Delcin? Sì, esatto, anche perché adesso stiamo parlando in questa trasmissione di quella che è la scienza enologica, però in realtà questa poi è collegata a tante altre belle cose. Non dimentichiamo comunque che a livello di agricoltura e di economia italiana, l'enologia, l'esportazione soprattutto di vino, rappresenta una delle punte di diamante. Certo. Le cantine italiane esportano in media dal 50 all'80% di quello che producono. Ma questo è una cosa di enorme valore. Il problema è che talvolta nel dibattito si tende a dire che in una politica per lo sviluppo italiano dovrebbero prevalere queste componenti e che dovremmo riconvertirci solo a questo e farne la chiave principale e forse unica dello sviluppo a dispetto dell'industria, che è sbagliato. Direi di sì, è sbagliato perché è una catena, è una filiera questa che parte chiaramente, noi lo vediamo sulle nostre tavole perché vediamo la bottiglia, ma in realtà ci sono delle industrie di una notevole dimensione in Italia, industrie meccaniche, quindi stiamo parlando di qualcosa che non è così immediatamente attinente col prodotto della terra, ma che sicuramente dà da lavorare a migliaia e migliaia di persone ed evidentemente è un notevole valore aggiunto per la nostra economia. Senta, parliamo invece un attimo della sua azienda, della Dalcin. Voi che cosa fate? Dunque, l'azienda è nata nel 49 come società di fatto, è fondata da mio padre evidentemente, il quale è partito da Conegliano Veneto, laureato in agraria, ed è venuto a Milano perché Milano all'epoca rappresentava il centro nevralgico del mercato del vino. Pochi milanesi lo sanno, ma sotto le volte dell'arcate della stazione centrale, negli anni 30, 40, 50 e anche 60, c'erano ogni arco una cantina che imbottigliava vino. Ah, interessante questo aneddoto. Ecco, e d'altra parte le dico altre due cose: la sede dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani è a Milano, la sede di Unione Italiana Vini, che è una delle più importanti realtà associative delle cantine, è a Milano, e il fatto che sia a Milano è perché queste associazioni hanno radici nel passato e Milano una volta era il centro nevralgico del mercato del vino, ecco perché si trovano qui. Poi la tecnologia, la tecnica, le cantine sono uscite da Milano città, evidentemente è rimasto qualcosa nell'Interland, e per spostarsi poi nei luoghi di produzione, quindi Veneto, Piemonte, Puglia e così via. La interrompo un attimo. Sulla storia della Dalcin sentite questa scheda. Dalcin è una delle principali aziende italiane nel settore della chimica per l'enologia, con una diversificazione in alcuni prodotti meccanici, come le chiusure. Ha circa 14 milioni di euro di giro d'affari e sedi produttive a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, e a Foggia. È stata fondata nel 1949 a Milano, quando il capoluogo milanese era la sede principale dell'industria vinicola italiana e il settore manifatturiero dei prodotti enologici ancora sostanzialmente non esisteva. Fondatore era Gildo Dalcin, padre dell'attuale amministratore delegato Marzio Dalcin. Negli oltre 60 anni di attività, Dalcin amplia progressivamente il suo lavoro di ricerca e produzione, espandendo i propri mercati in Italia e all'estero con la costruzione di stabilimenti produttivi e filiali commerciali e con la nascita di alcune consociate italiane ed estere. Dal 1960 al 1980, Dalcin si occupa anche di impianti di filtrazione solido-liquido con il marchio Comes DC. Numerosi i brevetti e le innovazioni scaturiti dalla ricerca Dalcin che hanno segnato la storia dell'enologia moderna. Dalle bentoniti all'acido metatartarico, dagli attivanti fisici della fermentazione alcolica ai materiali filtranti predispersi, fino alla recente innovativa linea Mini Tubes per la chiarificazione dei vini. A partire dagli anni Ottanta, la società ha inoltre investito con successo in diversi settori industriali e dell'agricoltura, in particolare con la creazione di linee specifiche di prodotti a base di bentoniti e materiali filtranti speciali per la separazione solido-liquido. Gran parte della ricerca applicata si sviluppa nei laboratori di Concorezzo. La possibilità di sperimentare nei propri stabilimenti tecniche produttive nuove permette di completare la sperimentazione anche dal punto di vista produttivo. Sul fronte ambientale, Dalcin S.p.A. aderisce al progetto Confindustria per la sostenibilità, con monitoraggio costante delle emissioni di CO2, impieghi idrici, scarichi ed emissioni. Il tutto secondo rigidi protocolli. Rieccoci dalla scheda sulla Dalcin. Senta, ma dottor Marzio Dalcin, ma voi che cosa pensate di fare nel futuro? Allora, il mercato nostro, nostra impresa lavora all'80% nel settore enologico, quindi è chiaro che ha il core business. Lo sviluppo dell'enologia è soprattutto nei paesi emergenti, nei paesi che stanno portando l'enologia sulle loro tavole, nel vero senso della parola, e che quindi sono in fase, pieno fase di sviluppo. Sto parlando di Cina, sto parlando di India anche, sto parlando di est europeo, Russia e così via. Quindi lo sviluppo all'estero è sicuramente la priorità. Non dimentichiamo che nel mondo si producono circa 250 milioni di ettolitri di vino, in Italia ne produciamo una quarantina. Quindi pensi che... tanto, è circa un sesto della produzione mondiale di vino è in Italia. Certo, diciamo più o meno la Francia è su questi livelli, la Spagna un pochino dietro, questi sono i tre paesi più importanti. Però se pensiamo alla Cina, la Cina sta piantando ettari e ettari di vigneti e ad oggi la Cina in questo momento, parliamo del 2016, ha più o meno la stessa superficie vitata dell'Italia. Quindi lei capisce che nel momento in cui questi inizieranno a produrre con lo spirito tipicamente cinese, che è quello di bruciare le tappe, nel giro di 5-10 anni noi potremo avere la Cina come maggior produttore mondiale di vino, anche perché hanno diverse zone enologiche, hanno la latitudine giusta, non hanno ancora la tecnologia giusta, per cui ad oggi imbottigliano molto vino che importano dall'estero, ma nel momento in cui avranno imparato tante cose sicuramente potranno essere il primo produttore al mondo. Questo spaventa un po' le nostre cantine, anche se io vorrei dire che... Ecco, dobbiamo chiudere, veloce. Io devo dire semplicemente che la Cina ha anche 1.300.000.000 di persone, quindi di potenziali clienti, quindi difficile che la Cina diventi un esportatore di vino. Il tema dell'industria meccanica e chimica trainata dall'alimentare e dall'enologico ci interessa moltissimo e infatti la puntata di domani riguarda la produzione di cucine che è un vanto del Made in Italy, soprattutto per quanto riguarda le cucine per catering e per grandi gruppi, e che dal boom della ristorazione viene trainata. Avremo come nostro ospite Enrico Berto della Bertos Cucine. Intanto saluto il dottor Marzio Dalcin. Un cordiale saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. E do appuntamento agli ascoltatori a domani ore 13:10.